Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore. Ma non farci caso, ti ho detto, e poi ascolterò il tuo verdetto. Ad ogni secondo la rabbia invecchia, e come la febbre mi spacca le ossa e latente mi aspetta. Seduta alle casse mi scruta ed esclama la tessera premio. Cresce di colpo quando poi vedo Mercedes Benz accostar le puttane con fare indeciso, per poi ritornare sudate davanti a villette allarmate. Cresce la rabbia nei supermercati, agli autolavaggi, davanti ai negozi alla moda assediati, di fronte alle scritte fasciste negli angoli bui delle strade. Se in qualche modo ti senti colpita, mia cara platea, questo canto ti morde, ti punge, ti attita. Se si erge a giudizio severo, tu sentiti in colpa davvero. Come non riesce a farti schifo la merda lanciata dall'alto da mani messe a pasturare, le stesse mani che hai stretto all'acquisto del televisore. Come non riesce a darti fastidio la quotidiana e forzata rincorsa al successo, al denaro, l'idea di una vita borghese, obiettivo nel nostro paese. Le mie vene d'arterie si stringono, il cuore impazzisce, ti manca il fiato, il respiro svanisce. Quando ti vedo ragionare col culo di fronte alle scelte, e quando ancora ti vedo abbassare lo sguardo che timido e stolido atterrato sui cazzi di un altro. E se sono ingiustizie, non importa, son cazzi di un altro. Lo dico una volta soltanto. Detesto vederti buttare nel cesso il tuo tempo, e a sera tirar la catena pensando anche questo è passato. Se tutto ciò non ti ha ancora convinta, mia cara platea, ti ho stancata e tu non me la vuoi dare vinta. Sopporta un minuto soltanto e poi spara su questo mio canto. Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze, allora l'odio di mamma. Voglia di rapina, di sfondare una vetrina, di combattere un sistema che ti opprime più di prima. Come un bandolero so, ti senti uno straniero, ti tagliano le ali e ti promettono il cielo. Vendono menzogne mascherando ciò che è vero, sei solo una pedina che si muove per l'impero. Reclami libertà ma il tuo pensiero non è libero, illusioni e religioni annientano il tuo spirito. Venere il denaro ma il denaro non è l'antidoto, è solo primo mezzo con il quale ti reprimono. Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze, allora l'odio di vampa. C'è voglia di rapina, di sfondare una vetrina. Dopo la tempesta il sole brilla più di prima. Lavoratori precari con diritti negati e direttori di filiali circondati da avvocati. Alimenta le nostre ragioni, soffiano forte sui nostri tizzoni. Vite composte, vite rispettate e vite intese come cumuli di proprietà. Fanno crescere il nostro tormento come pugni tirati sul mento. La rabbia bastarda mai si addormenta. Se la tua ci riesce, mia cara platea, la tua vita si è spenta. Percorri i tuoi giorni seduta in tribuna a guardare la partita. La nostra invece non si lascia stare, come un prigioniero innocente pretende di farsi ascoltare, di avere giustizia e di trovare la sua verità. Adesso prendi per bene la mira, lo sfogo è finito, lo metti per terra che appena respira. Ti guarda con aria di sfida provocando, ti urla, spara. Prima carica di forza il fucile, preccilo bene, preparati al colpo che sta per uscire. Comincia a contare al rovescio partendo dal numero 10. Ora sfiora leggero il villetto con un indice che non verrà allo scoperto. Trattieni un secondo il fiato e adesso spara.